vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io che non sarò mai un dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere fotocopiandoci il passato. Vivere anche se non l'ho chiesto io, di vivere come una canzone che nessuno canterà. Ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone, che dorme avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina, senza il rumore della pioggia. Tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, non si può vivere senza passato. Vivere, è bello anche se non l'hai chiesto mai. Ci sarà sempre qualcuno che la canterà. Qualcuno non mi basta vivere. Perché? Cercando ancora il grande amore. Vivi questa sera. Perché? Come se mai dovessimo non mi morire. Ora. Vissuta, vivere cercando ancora il grande amore. Vivere come se mai dovessimo morire. Vivere per poi capire all'improvviso che in fondo questa vita tu non l'hai vissuta. Ti dico no. Ti dico sì. Ti dico che ho voglia di vivere.